America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. So this banged up Green Bay Packer defense playing without Sam Shields and Charles Woodson makes a stop. I Packers di Green Bay hanno vinto il Super Bowl 2011. Gli Steelers di Pittsburgh sono rimasti sconfitti. Una partita, devo dire, combattuta fino all'ultimo. Il punteggio finale è stato abbastanza significativo, comunque 31-25 a favore dei Packers, che hanno sempre guidato la partita. Ma a un certo punto il vantaggio si era ridotto ad appena 3 punti. Il touchdown decisivo nel quarto tempo. Vi parlerò più a lungo di questa partita, perché la finale del Super Bowl rappresenta un momento molto importante dal punto di vista popolare per gli Stati Uniti d'America. Ma prima vorrei fare una pausa e fare il punto sulla situazione in Egitto. Devo dire che gli sviluppi del fine settimana hanno portato un po' di confusione diplomatica e politica alla posizione americana. C'è stato un ruolo centrale giocato da Frank Wisner, l'ambasciatore inviato da Obama per mediare con Hosni Mubarak, il presidente egiziano. Ebbene, alla fine è stato proprio Wisner a prendere un po' il pallino in mano, spiazzando sia il segretario di Stato Hillary Clinton che lo stesso presidente Obama, perché è stato Wisner a dire che il processo di transizione poteva avvenire soltanto con l'appoggio di Hosni Mubarak. Il punto della situazione in questo momento riguarda una tabella di marcia leggermente diversa. Le elezioni si terranno in settembre. Il numero 2 di Hosni Mubarak, Suleiman, sta mediando con i partiti di opposizione, e dunque la situazione resta fluida, perché si deve capire poi che cosa succederà da qui ai prossimi giorni sulla piazza. Soprattutto capiremo qual è la posizione definitiva dell'amministrazione americana in materia. Roethlisberger in trouble, finds Heath Miller, and Miller's brought down by Bishop. Avete sentito una telecronaca di questa partita straordinaria, perché si è chiusa poi nell'ultimo minuto, quando i Green Bay, che erano in vantaggio, sono riusciti a confermare questo loro vantaggio e a portare a casa il trofeo Vince Lombardi. Così si chiama il trofeo del Super Bowl. Vince Lombardi è un italo-americano leggendario, è stato un grandissimo allenatore, pensate, proprio con la squadra del Green Bay. Next up, the second. Una delle caratteristiche del Super Bowl è la pubblicità. C'è una specie di gara fra i grandi inserzionisti pubblicitari di tutta America per produrre gli spot televisivi più belli, più importanti, più rilevanti dell'anno. Di nuovo lo spot della Dorito è stato uno di quelli che si è affermato. Avete sentito questa musica che vi ho fatto ascoltare, era riferito proprio al Dorito. E sempre Dorito ha fatto uno spot piuttosto curioso, in cui si vede uno cagnetto, Carlino, che corre affannato, e il fidanzato della padrona di questo Carlino a casa con la porta chiusa dietro un vetro, che lo attira con questi Dorito che sono poi come dei crackers salati, e questo cane corre e la speranza ovviamente di questo che lo prende in giro è che il cane, che il Carlino, ve lo ricordo, quello che c'ha il muso schiacciato, vada a sbattere contro questa porta, e invece il Carlino salta sulla porta, butta giù la porta, è lui che schiaccia questo signore che lo provocava, e si sente poi il rumore di questi crackers che il Carlino è riuscito a conquistare. Give me a bud. We just ran out. Really? Questa pubblicità invece della Budweiser, la birra è una protagonista sempre del Super Bowl. La Budweiser, la Bud Light sono sempre state al centro del Super Bowl, hanno sempre avuto l'esclusiva, ma quest'anno è stato un anno particolare, perché per la prima volta sono sotto la proprietà di AbInBev, che è un conglomerato che ha comprato appunto la Budweiser, la Bud Light, e controlla anche Stella Artois. E è molto interessante perché per la prima volta volta c'è stata anche una pubblicità di Stella Artois in cui vediamo come questo conglomerato cerca di differenziare il gusto e l'immagine di queste birre che controlla, ma che cercano di proiettare un'immagine diversa. Per Stella Artois c'era niente meno che Adrien Brody, il grande attore che interpretava il ruolo di un cantante romantico in un nightclub, e queste donne bellissime attorno a lui che piangono tutte disperatamente soltanto a guardarlo. A metà tempo del Super Bowl c'è sempre un grande intermezzo musicale con un gruppo che suona per circa un quarto d'ora. Ieri ci sono stati i Black Eyed Peas, sono arrivati sul palco come se fossero piovuti dal cielo, scendevano su delle piattaforme, hanno fatto una performance straordinaria. Vi faccio ascoltare un piccolo momento di questo intermezzo musicale. Tornando alla pubblicità, vi dicevo che questa passerella di spot televisivi dà un po' anche il polso dell'America. Ebbene, alla fine il polso economico dell'America, che deriva dalla visione di questi spot pubblicitari nel loro insieme, ci dice che questo è stato l'anno delle macchine, delle autovetture. La maggioranza degli spot televisivi in questo Super Bowl sono andati alle automobili. Vi propongo questo, che ha un significato particolare perché è della Chrysler, che per la prima volta torna al Super Bowl, uno spot che è stato supervisionato direttamente da Sergio Marchionne. La voce che si ascolta nel finale di questo spot della Chrysler è di Eminem, il grandissimo cantante che è costato anche lui a peso d'oro. Sentiamolo. This is the Motor City. This is what we do. Il messaggio pubblicitario di Chrysler, vuol dire, è stato piuttosto interessante perché non soltanto ha creato un'atmosfera molto particolare intorno al lusso di questa vettura, ma ha cercato di proiettarsi come l'immagine stessa di Detroit. E infatti lo spot si chiude con una scritta che dice Imported from Detroit, importato da Detroit. Il tentativo di Marchionne è quello di dire che la Chrysler rappresenta in qualche modo tutte le auto americane, una scommessa importante perché rappresenta questo spot pubblicitario il tentativo di un grosso rilancio di questo brand che è stato in difficoltà ed è così importante anche per il futuro della Fiat. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su America 24, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi ho parlato dei Black Eyed Peas, dunque riascoltiamo di loro una delle più grandi canzoni che hanno scritto, Where is the Law? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have... America 24.